avait des yeux d'opale, qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Un istante fa ho scritto su Facebook l'argomento di oggi, la caccia alle straniere. Mi ha risposto un'amica su Facebook, dice: ma le pensi la notte? No, io infatti non la volevo fare questa trasmissione, secondo me non c'è proprio il tema. Cosa vuol dire la caccia alle straniere? Chi ancora va a caccia alle straniere? È un'attività molto adolescenziale, in voga negli anni del boom, in cui l'Italia era un paese visitato da fanciulle prosperose e libere nei costumi, entravano in questo territorio massacrato dalla guerra nel suo lento, inesorabile e glorioso risorgimento dopo la guerra, dopo la dittatura, in cui ancora aleggiava un doppio spettro di contenzione dei costumi. Da una parte c'era il rigore laico del Partito Comunista che impediva che l'amante di Palmiro Togliatti solamente si ventilasse il fatto che esistesse, e d'altra parte poi c'erano appunto la parte democristiana che controllava tutta la coscienza del paese. Quando voti, ricordati che Togliatti non ti vede, cioè Stalin non ti vede, ma Dio sì, e cose del genere. Ecco, in quel momento è chiaro, veniva una fanciulla da un paese nordico, anche semplicemente dalla Svizzera, al nostro confine, era molto più incline all'intima d'azione senza pregiudizio, senza doversi oscurare, nascondere, senza temere la scomunica, l'arresto, come la dama bianca di Fausto Coppi. E quindi logicamente gli italiani, ringalluzziti da questo fatto, millantavano in presa amatoria, poi in realtà erano molto più chiacchiere da bar che in realtà. Questo è stato mirabilmente celebrato e confermato nella nostra memoria storica dal cinema, dalla commedia di genere, dal romanzo. Ma oggi, ai tempi in cui stiamo vivendo, è ancora il caso di parlare l'apertura dell'estate con l'apertura della caccia alle straniere? Mi sembra molto difficile. Quali sono le straniere da cacciare? Forse le giapponesine che vanno in frotta come fossero eserciti soldatini a infilare la manina dentro la bocca della verità, che questo è il gesto più trasgressivo, la penetrazione più estrema che le è concessa a queste giovani figlie del sollevante? No, non è assolutamente quello. Forse alludete alle fanciulle che vengono dall'est, ma quelle ne riempono i cataloghi, i siti internet specializzati nella ricerca appunto di meraviglie che vengono dall'est. La nostra provincia ne è stata ampiamente colonizzata, intere famiglie sono state sfasciate. Poi mi sembra che anche le italiane abbiano fatto un passo avanti. Leggo una notizia che mi ha praticamente sconvolto e ha messo in crisi tutte le mie certezze. In Italia 8 quarantenni su 10 tradirebbero il proprio partner, lo afferma un portale dedicato agli incontri extraconiugali online. Chi oggi deve compiere atti di trasgressione si deve registrare a un sito, dare tutti i suoi dati naturalmente, e lì cominciare a incontrare altre persone con lo stesso desiderio, come se avessero tutti scritto sulla schiena "ho voglia di farlo". Beh, visto che siamo entrati nell'estate, che abbiamo ieri celebrato con l'ultima notte prima degli esami, oggi iniziamo l'estate e diamoci da fare per capire, per analizzare, per confortare questo mio dubbio: esiste ancora da parte del maschio italiano la caccia alla straniera? Esiste ancora questo costume, che c'è questa fantastica transumanza che con il clima estivo e con le stagioni vacanziere arrivano frotte donne che non chiedono di meglio che incontrare questi campioni della mascolinità? 800 24 0024. Ma lo sai che sei tutto, you are everything, tu sei la prima donna del primo giorno della creazione, sei la madre, la sorella, l'amante, l'amica, l'angelo, il diavolo, la terra, la casa. Ah, ecco che cosa sei, la casa. Sì. Ecco bello il repertorio di cazzate inanellate in affabulazione estrema e dilatatoria arte della parola da parte di Mastroianni nei confronti di Ekber, una delle scene clou in cui viene celebrato questo svagato sognatore, poeta, maschio italiano, e la giovane straniera, bella, prosperosa, quasi angelica, che entra dentro la fontana di Trevi. Sapeste che in realtà avevano entrambi una sorta di tuta di gomma che gli arrivava fino oltre l'ombelico, e che Mastroianni aveva degli stivaloni di gomma, e anche la Ekber sotto quelle forme fantastiche aveva degli stivali da pompiere, passerebbe tutta la poesia. Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno. So che tu sei fautore invece che esista una sorta di trattatistica fantastica, una sorta di arte amatoria stagionale che ancora si perpetra oggi anche alle nostre latitudini, anche nella nostra scombussolata contemporaneità. Introduciamo l'argomento. Dunque, questo senza doppi sensi. Partendo dalla Dolce Vita del 1960, in cui irrompe sulla scena italiana il mito svedese della Ekberg, l'archetipo appunto della algida svedesità. Sì, perché le svedesi arrivarono in Italia, scusa se ti interrompo, li facciamo avanti, assieme ai mobili impiallicciati o in formica. La cucina svedese era il simbolo della conquista, del boom economico. Arrivarono insieme alle cucine svedesi e tavolini con le gambette di ferro queste ragazze svedesi. Prima di Ikea, appunto, sono una sorta di anticipazione. Comunque, la sua irruzione a Fiumicino è meravigliosa perché arrivano appunto tutta una schiera di fotografi, i portantini che impazziscono, e poi gli viene portata in trionfo la pizza per farle assaggiare il vigore italico. Ecco, Fellini già abilmente gioca coi cliché e li propone in tutta la loro estensione, come abbiamo sentito prima. Mastroianni fa questa sorta di cantico delle creature elogiandone tutti gli aspetti della femminilità. Però insomma, questo era un po' il mito di queste donne nordiche, come dicevi tu, avevano già una emancipazione molto diversa, molto prorompente rispetto ai castigati costumi italici. Allora girava voce, io avevo già l'età della ragione a quel tempo, sentivo parlare gli zii più anziani, gli amici di famiglia più scafati, ero bambino, i bambini capiscono tutto, e oggi mi rendo conto che in realtà il vero imprinting che ce l'hai nei discorsi ascoltati degli adulti. Si diceva che le svedesi fossero di coscia così allegra alle nostre latitudini perché gli svedesi bevevano, erano ubriachi, si suicidavano tutti. Cioè, quella è una terra tristissima. Gli uomini sono tristi, si ubriacano e si suicidano, e quindi vengono da noi. Sì, gli uomini sono tutti come Strindberg, mentre da noi sono come Lando Buzzank. No? Questo è il cortocircuito era questo, per quello vengono da noi. Sì. Ma questo è un mito che ancora ricorre. Insomma. 800 24 00 24, quelli tra voi che hanno la canizie che onora le loro tempi forse ricorderanno quel clima fatto di luoghi comuni, di trepide attese, di rare ma intense consumazioni, ma di tante fantasie, di tante lucubrazioni, e quindi raccontatecelo. Voi che invece avete la fortuna di avere la vigoria e il conforto dell'età, raccontateci se ancora le questioni, le situazioni rispetto alla calata delle straniere sono ancora come raccontava appunto il caro vecchio cinema italiano. 800 24 00 24. Ecco le bube! I signori vogliono cenare? No, no, io non mi sento bene con lo stomaco. No, drink. Drink, c'è un drink? Un campanello. Sì, drink significa in inglese voler bere, voler guare. Ah, io non capisco l'inglese. Champagne, signore? Champagne no. Oh, no. Che peccato, signore, perché abbiamo proprio delle ottime marche. Lo so, ma c'è come. Di presente? Ma ti pare che lui smette la trippa secca sullo stomaco? Ah, va, trippa. Giovanotte, dico, andiamo via. Vuoi scendo? Non ho capito. Vuoi scendo? Ah, sì. Vuoi scendo? Ah, vuoi scendo? Adesso? E Cher Antoine. Antoine. Ma le mani, signore, io pensavo che le signore preferiscono qualche cosa di alcolico. In questo caso potrei consigliare un'ottima bottiglia di Park Lane. Ecco le altre. Scusi, questo Park Lane cos'è? Whisky, signore. Whisky. Sì? Allora facciamo così, due fischi. No. È bello perché è il senso e il valore di essere invecchiati. Ricordo le marche dei liquori cosiddetti raffinati del tempo, il Park Lane, sotto di whisky c'erano le barchettine sopra, cose del genere, il Moët Chandon, e poi naturalmente c'erano i sottogruppi di alcolici, e infatti Peppino, quando in questo momento fantastico amatorio è scalcinato, sarà portato la bottiglia dietro, sarà portato l'amaro, qualcosa del genere. Scena che poi verrà ripresa in un film di Fantozzi, in cui Fantozzi e Fellini portano la Brunella Ballor, un mitico liquore da casa, insomma c'è tutto un E lì, sì, come il crema caffè, il caffè sport, il millefiori con il ramoscello dentro, il vecchia Romagna con la testa di Bacco. C'è una serie di liquori che non erano di grandissimo prezzo, ma venivano usati per lo sballo istantaneo. Comunque, se Fellini nella Dolce Vita offre un mondo rutilante, patinato, anche se vogliamo onirico, forse inesistente, invece la parodia immediata che è Totò Peppino a Dolce Vita, che è del 61, di un anno dopo, invece offre un'adesione molto più veristica alla realtà, ovvero l'inalienabilità del linguaggio di queste due macchine tritale e semi, che sono Totò e Peppino, che arrivano, irrompono e tutto ciò che è esotico lo devastano, lo rifagocitano, cercando poi di sedurre queste straniere con appunto l'esibizione immagine di quello che è il dolce vivere legato ai liquori e tutto, ai distillati. Soprattutto a questi improbabili nightclub nella zona di Via Veneto, che erano fatti apposta per spellare appunto i provinciali che andavano lì con l'idea della grande conquista. Ecco, già sono arrivati i primi marpioni nostrani e contemporanei, li abbiamo al telefono. Francesco? Francesco? Sì, pronto. Lei è del mestiere? Pronto, la sento malissimo. Eh sì, quando non vuol sentire non c'è peggior sordo. È del mestiere, no. Lei? No, purtroppo no, o meglio purtroppo, diciamo no. E allora perché ha telefonato? Cosa ne sa lei della caccia? Diciamo perché per questioni anagrafiche non ho potuto usufruire e godere della rutilante anni 60-70 con la vita delle straniere disinibite a Rimini o quant'altro. Però ci sono alcune categorie, diciamo, che tuttora, diciamo, praticano quella caccia alle straniere. Ma lei sta in automobile? Sta muovendo in automobile? Sta in macchina? Si fermi un attimo, sennò la sentiamo a tratti. Sto cercando appunto un posto per fermarmi, sì. Ecco, adesso la sento un po' meglio. Ah, bene, evidentemente non c'è la campo. Non c'è. Dicevo... Lei bro, lo parla per esperienza personale o per sentito dire? Perché per sentito dire... no, anche per esperienza personale, diciamo. Allora, riferiamo il periodo, diciamo, la fascia di tempo in cui si è verificata questa... Ma la fascia di... Chiedo scusa, la fascia di tempo... No, non la sentiamo. Guardi, allora richiamate Francesco, che è importante la sua testimonianza. Lo seguiamo istantaneamente per riprenderlo migliore, perché mi interessa. Sentiamo Mario invece. Mario. Ciao. Ecco, lei la sento bene. Sono un perugino, quindi tu puoi immaginare... Sì, Perugia c'era l'università per gli stranieri, che sembrava fatta. Adesso non so cosa ne sia rimasto di quell'università. No, credo che sia molto, molto minore, avendo oggi un figlio di 30 anni, quindi avendo conosciuto gli ultimi 10 anni attraverso... Sì, ma ferma, stai fermo anche te, non vi muovete. Che... Ecco. Ok, mi fermo. Oggi c'è vento in tutto, cioè c'è la tramontana che soffia a Perugia anche a luglio, è una cosa impossibile. Sono all'inizio degli Appennini in questo momento, mi sto fermando però. Sì, fermati. Perché... Stai scalata. Sì. No, perché tutti in movimento è molto difficile. No, siamo ripreso Mario. Sì. Niente, è una cosa bellissima, meravigliosa. L'arrivo di queste centinaia di ragazzi era l'inizio dell'anno accademico, loro venivano l'estate naturalmente perché terminavano i loro studi, arrivavano, certo, era molto molto regolare, giugno, luglio, agosto, settembre. La piazza Grimana di fronte all'università per stranieri si riempiva di sfaccendati nulla facenti perugini. Non è vero. Il pomeriggio era pieno di umarel della Perugia Bene, geometri, ragionieri, impiegati, strascicatori del corso Vannucci, che andavano lì togliendosi la fede, che è un gesto tipico degli anni 50, per sembrare scapoli, con la tintura, la gomina argentina in testa e Renova, capelli neri corvini anche a 50 anni, stavano lì e aspettavano la straniera. È vero, io avevo 18 anni fino a 23-24, ma vedevo anche questi personaggi che erano... No, niente, è impossibile. Allora, fermatevi un attimo, anche Mario lo seguo, vediamo se il prossimo andrà bene. Oggi esiste una coincidenza di situazioni strane. Chi parla di innominabili caccia alle straniere ha la linea accedevole, o c'è un mortificatore elettronico o è la sfortuna. Dicevo, finisco io il discorso, questo accadeva nella Perugia studentesca in cui arrivano queste straniere e il medio borghese perugino che aveva la casa al lago Trasimeno e corrispondeva comunque, non so, alla Costa Smeralda regionale del posto, aveva il motoscafo al lago Trasimeno, le portava con il motoscafo a fare un giretto all'isola Polvese e approfittava probabilmente, o provava a approfittare, delle loro tenere carni. Roberto, vediamo se Roberto può parlare. Buongiorno, sono Roberto da Milano. Ecco, fermo lì, non ti muovere. Non mi muovo. Allora. Sono in macchina ma non mi muovo neanche io. A 17 anni andavi a Rimini. Sì, esatto, 16-17 anni sono andato a Rimini in tenda, sì. Tutte e due le situazioni, e ho annusato un pochino fra Rimini e Riccione quella... prima si annusa, che sempre così succede. Si annusa solo. Quell'area di caccia che veniva fatta da un gruppo di persone che si chiamano Zanza Boys, capitanati dal mitico Zanza. Sì, è un playboy di cui si favoleggia. Esatto, che facevano fra di loro una certa classifica, classificando le tedesche e le bresciane 0 punti. Quindi c'era proprio una sorta di caccia alla straniera qualificata. La riminese naturalmente valeva molto di più, non mi ricordo se 4 o 5 punti. Tu naturalmente guardavi e ti limitavi a osservare per la tua età. Io nel mio piccolo qualche straniera l'ho fatta, non ho fatto... Ma non si dice l'ho fatta, è brutto dire. Ho avuto no, una storia d'amore. Vittima, che brutalità. Intendo come vittima, cioè sul campo. Sì, ma non è mai la donna la vittima. Rompiamo questo luogo comune. No, la vittima ero io. Beh, uno pensava che fossero seppelliti certi anacronismi. No, la vera vittima ero io, anche perché poi nel tempo, col tempo, ho sposato una persona di origine greca col quale ho avuto un sacco di problemi, dal quale adesso sono separato. Lo so, la moussaka è pesante e rimane sullo stomaco. D'altronde c'è un altro aspetto delle straniere da considerare, la difficoltà della comunicazione, che è un'arma a doppio taglio. Una difficoltà linguistica c'è. Esatto. Poi quando ti conosco, ma in quel caso della zona del riminese conveniva probabilmente rivolgersi alle locali, che probabilmente avevano più facilità in questo campo. Ma non vorrei scivolare nel pernicioso e scurrile doppio senso, e quindi andiamo avanti. Ecco qua le valigie, erano due, vero? Right. Adesso andiamo my car. Il mio nome è Giovanni. Welcome in Sicily, my beauty. Ecco qua. Tu molto gentile. Io in italiano. Poca spesa, very inexpensive. Molta pace, very quiet. Io conoscere piccolo albergo, little hotel, dove tu molto incantata. No, io credo non possibile. I have reservation. Eh? Io prenotaccio albergo Taormina, tu capisci? Taormina molto romantico. Posto innamorati. Lovers, capisci? Amore. amore, lover. Una grande conoscitrice dell'animo umano, l'ascoltatrice Veronica, che scrive su Facebook, dice: secondo me non sono le turiste, sono le turiste che vanno a caccia, la donna è diventata cacciatrice e l'uomo preda. Secondo me lo è sempre stato, sempre avvenuto questo, c'è cioè una sorta di mistificazione o gioco delle parti. In questo caso dove siamo andati noi? Qui siamo in Sicilia, col Don Giovanni in Sicilia del 67 di Lattuada, tratto da Brancati, con... Se Totò e Peppino, abbiamo sentito prima, erano quella piccola borghesia un po' goffa, un po' panzuta, che insomma, cerca di sedurre improbabilmente, in cui ci si può identificare facilmente, la versione invece archetipica del maschio italiano negli anni 60 era appunto Lando Buzzanca, con la sua aria da siciliano antico, che appunto potesse essere credibile come viriloide. Pensa che ne uscì anche un fumetto di quelli salaci. No, Lando era Lando Fiorini. Buzzanca faceva un personaggio che si chiamava Il Montatore, era un camionista, naturalmente alle imprese erotiche terrificanti. Sì, questo naso camuso che lombrosianamente alludeva a virtù, ad altro tipo di virtù, insomma, e quindi c'è tutta la sua capacità. Anche qui c'è l'incapacità, la non volontà di adeguare il proprio linguaggio, di essere altro da sé, appunto si deforma la lingua straniera, però comunque si seduce perché si è italiani, si è portatori di cliché di arti amatorie, di buona cucina, insomma, di mediterraneità. Un cliché che grazie a Dio si è appannato, perché sennò viviamo schiavi di questa attesa che poi nessuno di noi è in grado fino in fondo di onorare come si aspetterebbero naturalmente le signore. Spiros, buongiorno. Buongiorno, io chiamo da Firenze, è un piacere parlare con voi. L'argomento è pluriginoso, ma al contempo è molto interessante, secondo me. Qualsiasi argomento può essere sfiorato e lambito senza urtare la sensibilità, basta saperlo fare. No, ma assolutamente d'accordo con questo punto di vista. Era soltanto poi per portare una testimonianza che smentisce due luoghi comuni fondamentali di questo gallismo tipicamente italiano. Ci dica. Il primo, che questo si sia, sviluppato nelle spiagge a Rimini, in particolar modo, e con le svedesi. La mia esperienza nasce... da un vissuto particolare che è nella mia città, Firenze. Firenze negli anni 70-80 aveva un passo, perdonatemi... No, un passo di inglesi, naturalmente, chiaro. Di americane. Americane e inglesi, sì. Particolarmente americane, che pascevano in un luogo particolarissimo che si chiama Mercatino di San Lorenzo. Io ho avuto l'avventura di nascere in quella e vivere in quel quartiere, e oltretutto il mio babbo aveva una sua attività commerciale che portava spesso gli stranieri, grazie a Dio anche le straniere, a fermarsi. Allora Spiros, siccome mi interessa molto sapere l'esito della sua testimonianza. Si fermi un istante, diamo la linea alle informazioni della borsa perché dobbiamo dargliela. Lei resti in attesa, poi ci racconterà l'esercizio commerciale di suo padre, come era accostato comunque alla proficua intercettazione della transumanza dell'americana a Firenze. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Acqua di ciumi, sonno e dovrazza freschi di maga. Io sogno un persico che ci sporca la vita. No. Acqua di fiume, sono le tue braccia fresche di maga. Capisci? Io sono una pesca a cui sporca la vita. I'm a beach and you suck my life. Suck my life. Succhi la mia vita. Succhi my life. Uno ama e tu succhi. Pardon. Certo, partiva alto, è sceso abbastanza di livello il nostro maschio italiano Don Giovanni in Sicilia. Però c'è sempre questa cosa qui che dobbiamo sempre fingere afflati poetici. Oggi il corrispondente nel mondo delle web relazioni e fare il copia e incolla dai siti specializzati dove mettono già frasi di status di Facebook enigmatiche. Stiamo riflettendo con Giuseppe Sansonna, questo è il Don Giovanni in Sicilia di cui abbiamo già parlato, che in effetti oggi è meno proponibile il fascino della straniera. Non era tanto la libertà di costume quanto il fatto che poi se ne andasse. Non creava strascico. L'italiano in quel tempo era fidanzato robustamente, era vigorosamente sposato, voleva delle avventure leggere, fresche, che lasciassero il segno di una carezza e nulla più. Una volta partita, tornata in Germania, in Svezia, in Inghilterra, in America, al massimo poteva mandarti una lettera, non una telefonata in teleselezione, anzi in interurbana o in intercontinentale, era improbabile e impensabile. Scompariva, evanescente, era come il tasto stop del telecomando della relazione amorosa. Oggi questo è impossibile. Sì, oggi c'è una contiguità appunto legata alle web, ai social network, che impedisce l'attesa, impedisce il rinvio esotico. Tu appunto hai una presunto virtuale contiguità con tutto. Comunque ancora due parole su Lando Buzzanca, che è prima dei cliché di Dolce & Gabbana, del modello siciliano in bianco e nero che esce dalle acque col polpo, appunto. Lando Buzzanca già lo evocava in questo suo Don Giovanni in Sicilia. Peccato che miseramente nell'età matura, nella maturità, ha rinnegato questa sua scaturigine fantastica, smesso a fare il serio, l'impegnato, non ha più senso. Rinnegano gli anni ruggenti, sì. È un peccato su tutti questi grandi leoni, come appunto Banfi, Buzzanca, i momenti migliori, l'età aurea in cui appunto... Come se fosse una vergogna, sì. Floreggiavano e invece hanno descritto in qualche modo bassezze e estasi dell'italiano medio. Riprendiamo con Spiros, che Spiros avevamo interrotto, ci raccontava che il padre aveva una fantomatica rivendita di non so che e lui ne approfittava per intercettare le straniere a Firenze. Ah beh, non ero il solo, non ero il solo. Sì, ma cosa vendeva suo padre? Allora, mio padre, due veramente brevissime parole sul mercatino di San Lorenzo. È un mercatino all'aperto con tanti barroccini, chiamiamoli così. Bancarelle. Che sono delle barroccini si chiamano Firenze, che sì. Sono delle postazioni fisse poi in effetti. Però hanno le ruote, in realtà uno potrebbe spostarle. No, assolutamente. No. Questi stavano sempre fissi lì, ognuno aveva il suo posto, ma tuttora credo che sia così. Ormai ho perso contatto con quella splendida realtà fiorentina che oggi si è trasformata, sono diventati proprietari non più. Andando all'osso, bisogna specificare che era in larga parte dedicata tutta l'attività economica di questo mercatino agli stranieri. Il mio babbo vendeva semplicemente abiti in pelle, pantaloni in pelle, giacche in pelle, giubbottini in pelle, così prima via. Prima dell'arrivo dei cinesi a Campi Bisenzio? Sì, molto prima, si sta parlando degli anni 70, inizi anni 70, io ero in prima liceo, insomma. Ecco. Quindi poi c'è stata una sovrapposizione dell'economia e quindi suo padre non è stato più sul mercato probabilmente. No, ma lui se n'è andato in pensione, ma questo è ancora un altro discorso. Per tornare all'osso, dicevo che tutta l'attività di questo mercatino era in larghissima misura, in gran parte dedicata all'acquisire il turista che se ne veniva lì a comprare le cose tipiche fiorentine, la pelle in larga parte, quindi borse, abbigliamento e che più ne ha più ne metta, insomma. E la scusa per quello che mi riguarda era, siccome frequentavo il liceo linguistico, istruirmi e impratichirmi nella lingua inglese, non solo. E beh, dico che sicuramente a questo è molto servito, però lì si è svolta gran parte, non solo quella mia, della mia formazione, come dire, amorosa e sessuale. Ah, certo, perché negli anni 70 gli americani, che erano in prevalenza le turiste che frequentavano questo posto, insomma, si concedevano, direi, abbastanza. E qual era, diciamo, la frase tipico? Le aggiungo un buco alla cintura, cose del genere? Come faceva a entrare nell'approccio più personale? Delicato. Nel modo più banale, perché bisognava badare all'esso, come si suol dire, perché bisognava vendere. Sì. Quindi o il bollito, come suol dirsi. La pentola la sera doveva bollire, no? Però ecco, poi c'era l'approccio simpatico, l'invito a... Non, ovviamente non si consumava al minuto il, come dire... E dove le portava? Sul Greto dell'Arno? Dove le portava poi? Beh, sì, anche pure il babbo aveva un magazzino dove di deposito, si andava lì. Ma non ero il solo, ripeto. E poi le appoggiava sulle balle di pellame, ecco, abbiamo capito. Beh, lasciamo perdere. No, il particolare in questo caso è fondamentale. No, diciamo che era molto più comodo, va bene, che c'era anche un letto, se si vuole. Beh, per suo padre mica dormiva, secondo me... La stessa cosa aveva già fatta anche lui in partenza, in precedenza. Oh, bravo, infatti sì, con il sommo disappunto di mia madre, il quale l'ha beccato pure una volta. Ripeto, lo so, erano tempi in cui bisognava stare... Era 40enne, 45 anni, molto piacente all'epoca, quindi insomma... Vabbè, abbiamo capito che esisteva una sorta di luogo dell'iniziazione, del passaggio di testimone, della seduzione della straniera, nello sgabuzzino del deposito dei pellami della premiata ditta Spiros e Figlio. Francesco. Sì, buongiorno. Eccolo. No, io telefono, la mia esperienza è un po' diversa. Io inizio anni 80, metà anni 90, abitavo a Parigi a seguito di un rapporto con una ragazza francese che avevo conosciuto durante un viaggio, però mio padre abitava a Roma, quindi l'estate, spesso a luglio, venivo a Roma. E quindi, diciamo, Parigi, che come Roma è una città di grande frequentazione di ragazze straniere, era un punto di osservazione abbastanza interessante vedere i due aspetti fra le due città. E qual era la differenza? La differenza sostanziale intanto è che a Roma, dove tra l'altro mi ricordo un'epoca, un'estate addirittura con la mia macchina decappottabile, abbiamo incontrato due ragazze finlandesi, poi siamo venute a Parigi con noi in un viaggio di mille... Beh, avevate degli accessori di demolizione della resistenza era irresistibili, la decappottabile, la casa, esatto. A Parigi, che potete offrire di più? Era una macchina d'occasione, una 124 Spider Pininfarina, che tra l'altro arrivata a Parigi si fermò completamente e schiattò. Beh, però era una bella macchinetta, Stefano. Oggi è una macchina d'epoca ricercatissima. Bellissima, con il tappetino rosso e la cloche di legno. Insomma. Comunque le dicevo, la differenza. Diciamo il passo immediatamente inferiore all'850 coupé. Esatto. E la differenza sociale era questa, che dunque a Parigi chiaramente c'è una grande attività di gallismo francese e italiano, perché poi sono parecchi italiani anche, però si opera in modo molto più discreto e comunque si opera individualmente, diciamo. In Italia invece succede che tipo in luoghi tipo Piazza Navona, Piazza di Spagna, ci sono gruppi proprio interi di ragazzi 4, 5, 3 che vanno proprio alla caccia. Sì, una volta erano i militari in libera uscita, è un banale simulare l'approccio, perché difficilmente queste orde, questo approccio di gruppo esatto, sortisce questo... risultati concreti, è più per confortarsi a vicenda, dire quanto esatto. Siamo bravi, andiamo a donne. Sergio, chiudiamo con Sergio la tornata degli ascoltatori e poi andiamo avanti. Sì, telefono da Firenze. Telefonasse una donna questa mattina, ma fatevi sentire, ritirate su il vessillo della femminilità oltraggiata da questi portatori di un gallismo che non è più di questi tempi. Sergio. No, per me non era un problema di gallismo, era un problema di sussistenza, in quanto a quei tempi, negli anni 60, metà anni 60, la differenza di guadagno fra un'americana e un italiano era di 5, 6, 7 volte. Lei faceva il mantenuto? No, me li guadagnavo onestamente. L'uomo da marciapiede. Prendendo il 10% di percentuale in tutti i negozi dove portavo le ragazze a fare acquisti. Tenendo presente. Ah, non è che le pagassero l'intima d'azione, semplicemente prendevano la percentuale quando portate le clienti. È anche successo la seconda cosa. Ah, l'hanno pagata per far l'amore? No, hanno pagato perché magari dopo Firenze volevano andare a Roma, avevano piacere che io andassi con loro, io dicevo che perdevo in quella maniera il lavoro, eccetera, eccetera, e quindi erano disponibili a pagare per la mia trasferta. Ah, per la trasferta, diciamo, non per l'intima d'azione. Che includeva l'intima d'azione. Ma non era nel tariffario. Ma lei... certo, perché naturalmente certo, perché l'invito veniva dopo la d'azione, perché altrimenti non avrebbero mica... Vabbè, avevano ricevuto, saggiato, apprezzato e quindi erano disposti a pagare. Esatto, mi sembra logico, esatto. È una regola di mercato. Tia, tu non devi fare niente, fa solo quello che fa papà, non ti puoi sbagliare. È cambiata la direzione del vento, mo soffia da est. Cristiano Bella, papà non gliene frega niente del vento, guarda qui che sventole che ci sono. Guarda, le vedi? Tutte disponibili, tutte belle. Guarda, guarda quelle due, Cristiano. Guarda quelle due. Quali? Quelle, accendi la sigaretta. Ma non fumo, quante volte lo devo dire? Cazzo, frilli. Hai un momento? Please, miss, excuse me. Oh. Dankeschön. Loro tedesche? Sono tedesche? Ja, siamo di Hamburg. Oh, di Hamburg, lo senti? Anche loro sono di Hamburg. Perché chi è di Hamburg? Come chi, tu, no? Lui, professor. Prossimo anno viene a Hamburg. Lei viene in Hamburg? Sì, io no. Qua è Alberto Sordi, da lezioni passa al testimone di approccio alla straniera Verdone. Però visto che dobbiamo dare immediatamente la linea al traffico, diamo la linea e poi con Giuseppe Sansonna entriamo in merito a questo passaggio piuttosto mesto, triste, di testimone tra un padre in decadenza e un figlio che ha tutt'altra intenzione che andare con le straniere. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Hai un momento? Please, miss, excuse me. Oh. Dankeschön. Loro tedesche? Sono tedesche? Ja, siamo di Hamburg. Oh, di Hamburg, lo senti? Anche loro sono di Hamburg. Perché chi è di Hamburg? Come chi, tu, no? Lui, professor. Prossimo anno viene a Hamburg. Ah, lei viene in Hamburg? Sì. Io no. Sì. Lui ha una casa a Hamburg. Ah, casa? Tu hai una casa a Hamburg, vero? Ma che stai a dire? Ma che stai a dire? Ecco, vedi, ma ti ha detto. Lui, grande coglionem. Danke schön. Lui, grande coglionem. Questo film è molto triste, perché in realtà dimostra il tracollo, il declino di un'epoca. Sordi è tristissimo, finirà che a un certo punto il figlio animalista, ecologista, Verdone, gli farà fuori una sua amante più giovane che per ripicca andrà con lui e Sordi piangerà. Nel pianto del vecchio Sordi c'è tutta la decadenza appunto dell'amatore con gli stratagemmi, con le tedesche, fingendo che il figlio è un professore. È un film profondamente cinico, perché qui c'è un Alberto Sordi commendatore che appunto cerca di trasmettere filialmente un'educazione impossibile al figlio che è la macchietta di Verdone classica in salopette, naturista, ornitologo, amante dei richiami, interessato solo ai richiami degli uccelli, che vive in una comune, insomma c'è questa impossibilità di dialogo, c'è tutta... Sordi invecchiando e autodirigendosi, quindi non avendo un controllo della sua maschera, esagera, deborda nella feroce. Sempre stato il suo grande limite quando vuol fare il regista. Poi c'è una scena che per me è di culto, quando lui parla da solo in macchina, che piace molto. All'ultimo Sordi piace molto, dice: sti figli quanto ce fanno pena, parlando, facendo una sorta di assolo con lo spettatore. Poi riappare Verdone nel retro della macchina, si abbracciano. Quindi c'è la feroce e il sentimentalismo. Il Sordi delirante, però offre comunque uno spaccato di questo voler essere vecchio stile raccontato ai giovani, l'impossibilità di raccontare anche ai giovani negli anni Ottanta, insomma, l'impossibilità di trasmettere qualcosa di sano. Sentiamo qualche... mi scrive un ascoltatore su Facebook che oggi in realtà le vere cacciatrici di stranieri sono le donne, lui viaggia molto, ha visto a Cuba e in Giamaica signore italiane alla caccia di guide turistiche, umarelle locali in questi luoghi esotici, in realtà probabilmente c'è questo cambiamento, ma tratteremo come argomento a parte magari. Mimmo, andiamo avanti con gli uomini, visto che le donne questa mattina sdegnose si ritraggono dal partecipare alla nostra trasmissione. Mimmo. Salve Gianluca. Allora, innanzitutto vorrei fare una premessa. Siamo qua. Io ho posseduto una Fiat 850 bianca con gli interni in simil pelle rossa. Era il top, era decappottabile. Il solo problema è che non avevano i reclinabili, quindi bisognava fare dei controlli. Si faceva la modifica, costava 30.000 lire. Bisognava fare dei contorsionismi, bisognava spostare... Si faceva la modifica, lo facevano i carrozzieri. Mettersi sul sedile posteriore. Con 30.000 lire a sedile ti mettevano... Ma purtroppo nel 1959 mi pare non li ha voluti spendere i 30.000 lire, quindi avevamo la macchina... Comunque con la tua macchina non andavano poi tanto giù i sedili, perché dietro non c'era praticamente posto, quindi potevi avere un'inclinazione suppellettiva di massimo 22 gradi, che poi non è poi... Diciamo, io essendo anche alto andavo anche un po' scomodo, però diciamo, bene o male si trovava la... la posizione giusta, anche reclinato. Era molto invasivo portando anche, diciamo, il pontone del cambio in quella macchina. No, diciamo, si metteva sul divanetto posteriore, che era molto più comodo. Sì, aveva 25 centimetri. Potevo usare anche il cofano, volendo anche... Sì, soprattutto dopo un lungo viaggio, anche riscaldato. Vabbè, andiamo avanti. Vabbè, io sono nato e cresciuto in un paesino a ridosso della penisola sorrentina. La penisola sorrentina era un terreno di caccia molto ambito per le straniere. E tutti quelli come me della mia generazione avevano battuto sempre con un enorme successo la penisola sorrentina per quanto concerne... Beh, la terra dei limoni naturalmente era stata decantata. Non era solo la terra dei limoni, era la terra una terra molto battuta da tedeschi, inglesi, francesi. Diciamo che quasi tutti sfigati e non riuscivano a portarsi dietro il proprio trofeo. Io, diciamo, appartenevo a una parte un po' più privilegiata, perché a parte che all'epoca ero molto giovane, avevo qualche soldo in tasca, quindi frequentavo le discoteche. Le donne che più ambite erano quelle che potevano pagare, che potevano frequentare posti un po' più cari, mentre invece i cosiddetti sfigati, i ragazzi che non avevano un soldo, giravano per strada cercando, diciamo, tra parentesi lo scarto, ma non è esatto proprio dire così. Noi che frequentavamo posti un po' più d'élite, dove si pagava, anche se era un po' difficile entrare, perché anche all'epoca si entrava a coppia, bisognava usare degli stratagemmi, entravamo in questi posti e potevamo cuccarci, diciamo, il meglio. Anche se noi siamo cresciuti con... È fantastico che esista ancora qualche residuo di considerare, appunto, la femmina come oggetto di conquista. Che, guardi, visto con delicatezza, con distacco e individuandone l'aspetto storico-antropologico, si può fare, è passabile, non è vessatorio, è una realtà che è descritta tale quale come era, è inutile usare edulcorazioni. A quel tempo c'era una sorta di transumanza di femmine e di cacciatori che le coglievano al volo. C'era un patto di tacito accordo per cui felici le femmine di essere prede e felici gli uomini di essere cacciatori. Detto questo, probabilmente oggi si ragiona in maniera più politicamente corretta, ma quello era. Sentiamo Vladimiro. Vladimiro. Pronto, buongiorno. Sì. Buongiorno, complimenti. Pronto? Sì, l'ascolto, Vladimiro. Sì, complimenti per la trasmissione. Niente, io abito a Forlì, per cui siamo vicinissimi ai lidi. E cosa faceva a Forlì? Allora si andava al mare d'estate, soprattutto dopo la scuola, infatti prima esperienza a 16 anni, 17 anni col motorino, e lì si conoscevano naturalmente soprattutto gli stranieri, perché poi io ero affascinato, non so perché, sono tuttora affascinato dalle straniere, quindi francesi, olandesi, tedeschi. E quindi? Sta di fatto che io adesso sono sposato con una ragazza svedese e ho quattro figli, per cui... Ecco, alla fine... Di svedesi, lieto fine, vedi. Questo è il lieto fine che compenserà, esatto, il nostro trasgredire, il nostro aver messo in dubbio la staticità e l'integerrima tenuta alla famiglia. Alla fine avete visto, ha telefonato l'ascoltatore, che la sua preda l'ha trasformata nella sua benedetta moglie con cui ha fatto quattro figli. Sei contento, Giuseppe? Sì, così riscatta il brutale lessico venatorio che abbiamo ascoltato finora. No? E quindi siamo assolti. Siamo, ci sentiamo domani. Parti d'un tourbillon la vie, on a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.